Ma tu hai bisogno d'aiuto? Questa è la frase con cui Marco Ardemagni si trova davanti a questo tizio che in qualche modo prima gli chiede di fare l'amore e poi gli dà una mano. La notte però è ancora lunga, ma me la faccio raccontare la parte finale di questa notte dalla viva voce di Marco Ardemagni. Pronto Marco? Buongiorno Matteo, ciao. Buongiorno a tutti. Ciao, come stai? Bene, bene, bene. Senti, io ti ringrazio innanzitutto per averla scritta, perché appunto però era lunghissima e io non sono riuscito a farla stare in tutto il programma. Però abbiamo veramente 2 minuti, Marco. Mi piace che la finisca tu, perché è nata come storia orale ed è giusto che muoia come storia orale questa, no? Vediamo se riesco a farla. Io le 20 carte, tra l'altro, gliele ho date dopo una mezz'ora che insisteva a voler far l'amore. Insomma, lui alla fine capisce, una volta ottenuti i soldi, capisce che forse hai bisogno di aiuto e si offre di spingere la mia macchina in una modalità abbastanza sessuale, se vogliamo, in quanto si mette dietro con la sua Renault e da tergo spinge la mia Peugeot. Cioè ti spinge con la sua macchina. Con la sua macchina. Okay. Dopodiché, dopo un po' di metri, si mette in moto con la mia macchina. Okay. E supero quel piazzale Lodi, imbocco Viale Umbria, perché conosce la topografia milanese. A quel punto la macchina va, e io scendo la macchina in festa e capisco che lui ha perso tempo stando dietro a me invece, certo, di andare insomma in giro a cercare altri spasimanti, e gli mette in mano altre 20.000 lire. Ma perché, scusami? Ma perché lui aveva perso tempo con me. Ho capito, ma gliene avevi già dati 20 nemmeno per far l'amore. Era tale la gioia in quel momento. Vabbè. Insomma, quindi lui piglia altre 20.000 lire, con 40.000 lire in tasca se ne va. E scompare la notte milanese. La macchina fa altri 50 metri e si riferma. Okay. A quel punto la metto sul marciapiede, chiamo la mia amica Elena dall'altra parte della città, dico: guarda, devo assolutamente andare a Vimercate, vengo a prendere una macchina da te. Lei dice: vabbè, sì, ti presto la mia Visa. Allora, la Visa, certo, chi se la dimentica. Quindi tu pigli un taxi. A questo punto piglio un taxi, però mi rendo conto che i soldi stanno finendo. Infatti, arrivato a 2 chilometri dall'arrivo, il tassista dice: guardi, quanto hai? Ho 8.000 lire. Guardi, 8.000 lire la posso lasciare solo fin qui. Guardi, mi porta alla fine e dice: vabbè, ma che sfortuna che ho io. Mi accompagna sotto casa a gratis. Ok. Dove prendiamo la Visa? Scusa Marco, vado in fretta perché veramente non ce la facciamo. Prendiamo la Visa. Prendiamo la Visa che faccio 1 chilometro con la Visa, dopo aver poi fatto era senza benzina, faccio benzina, la Visa si blocca anche la Visa. Okay. Blocca anche la Visa. Dove siamo? A questo punto dove siamo più o meno? Siamo al Monumentale, altra zona. E che ore sono? E che ore sono? La notte milanese. A questo punto parcheggio sul marciapiede anche la Visa della mia amica. Sì. Chiamo un altro taxi, muoia Sansone, tutti i Filistei, vado a Vimercate in taxi, perché nel frattempo ho incassato dal banco. Che sono più o meno quanto? Tipo 80.000 lire dell'epoca. Va bene. Per l'epoca era un cifrone mio. Stiamo andando verso nord-est, perché il mercato nord-est, mi rendo conto che però avevo lasciato la valigetta da 1 milione dall'altra parte della città nel bagagliaio dell'altra macchina. Della tua 305. Nella mia 305. A quel punto il tassista, guardi, dobbiamo fare un'operazione, dobbiamo andare a recuperare una valigetta in una valigia di un'altra macchina fermata anche quella sul marciapiede. Il tassista mi guarda, ormai insospettito, mi porta lì. Alla fine di tutto questo giro arrivo alle 5:15 a Vimercate per dormire un'ora, e poi alla fine della mattina ovviamente Piera si è dimenticata di chiamarmi per fare la telefonata di controllo che mi aveva praticamente minacciato di fare all'inizio di questa storia. Marco, ce l'hai fatta. La buona notizia è che A, poi ti sei sposato e va tutto bene, avete una figlia. B, tutta la storia di Marco, che è stata raccontata in questa maniera un po' velocemente per colpa soprattutto mia, la trovate sul suo blog, che è, dillo tu Marco, così lo dici meglio, ardemagni.blogspot.com. Per la prima volta scritta nero su bianco. Per la prima volta dopo anni. Ti ringrazio moltissimo.